Con Chiara Casarico, una delle curatrici della settima edizione di Agorà Teatro e Musica alle Radici, a Roma, anfiteatro di via Luigi Bombicci, a Pietralatra, dal 15 al 30 settembre. Chiara, ben trovata. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Raccontaci. Allora, vi racconto. Beh, siamo alla settima edizione, quindi insomma ormai abbastanza collaudati. Questo Agorà Teatro e Musica alle Radici di quest'anno ci offre delle belle novità. Intanto, vabbè, questa non è una novità perché Lucilla Galeazzi è sempre stata la madrina del festival e quindi noi apriamo il festival sabato 15 con un concerto di Lucilla. Nella fattispecie sarà Il fronte delle donne, che è uno spettacolo che Lucilla ha scritto sulle donne nella Prima Guerra Mondiale, una cosa molto interessante, molto intensa, molto bella, che abbiamo portato in scena nel 2015 all'Auditorium. Poi insomma quest'anno siamo stati al Teatro Vascello, insomma uno spettacolo con i fiocchi, come si suol dire, e questa è l'apertura. Poi domenica 16 io vorrei segnalare Figlie di Scheherazade, che è una nostra vecchia produzione, ma è uno spettacolo che è inserito anche in un altro progetto. In qualche modo è l'inizio di un progetto che si chiama Libere di Essere, che poi noi svilupperemo in autunno in collaborazione con la Chiesa Valdese e soprattutto in collaborazione con i centri antiviolenza della rete Dire, perché diciamo che insomma noi abbiamo sempre avuto a cuore tematiche di impegno civile e nella fattispecie abbiamo lavorato spesso in collaborazione con centri antiviolenza o comunque realtà del genere. E in questo caso io vi invito a vedere non solo lo spettacolo Figlie di Scheherazade domenica 16, ma venire a sostenere queste realtà. Infatti faremo una raccolta fondi per il centro antiviolenza Donna Lisa. E quindi veramente venite in massa perché è importante sostenere queste realtà che purtroppo, come sappiamo, ogni anno subiscono sempre più tagli, oppure anzi, mediamente non vengono finanziate, vengono vessate, e invece il problema della violenza di genere purtroppo è un problema sempre, come dire, attuale. La seconda settimana di festival inizia con un venerdì 21, è l'unico venerdì della programmazione che noi facciamo, e abbiamo un bellissimo concerto dei Radicanto con Memorie di Sale. Anche questo è un appuntamento assolutamente da non perdere. Sabato 22 invece finalmente ci distendiamo e ridiamo un po'. Abbiamo la compagnia Movimento Comico, con la quale ormai collaboriamo da anni, e che ci presenta uno spettacolo squisitamente comico. Si intitola Rossi di Naso, quindi cioè, potete già immaginare il clown teatrale che si esprime in tutta la sua bellezza. Chiaramente è uno spettacolo, diciamo, per adulti, ma va bene anche per i bambini, per le famiglie, perché per fortuna insomma il clown ha un linguaggio universale. Però ecco, non pensate che sia uno spettacolo per bambini, tanto è vero che viene programmato il sabato sera alle 20, quindi è proprio uno spettacolo per adulti, però almeno si ride, si ride. Poi domenica 23 abbiamo una coproduzione, Naufragarmè dolce Radicanto, ed è uno spettacolo nuovo che uscirà come reading, perché appunto stiamo finendo di fare gli ultimi ritocchi, stiamo scrivendo le ultime parole. Infatti tra le varie cose che ci vedono impegnati in questo momento non è solo l'organizzazione, ma è anche proprio la creazione artistica. Ed è uno spettacolo di teatro canzone cui raccontiamo il 68, a 50 anni da questo evento che è stato probabilmente uno dei momenti più importanti della storia dell'ultimo secolo. Andiamo a rivisitarlo, lo rivisitiamo attraverso le canzoni messe in hit parade quell'anno, ma anche attraverso i racconti di vita vissuta, e insomma uno spettacolo che vi invitiamo a vedere. E poi chiudiamo la rassegna. Sabato 29 abbiamo E colpa mia, che è uno spettacolo di narrazione con musica di di Tiziana Scrocca, anche questo assolutamente da non perdere, perché chi conosce Tiziana Scrocca sa quale magnifica attrice essa sia, quindi venite assolutamente a vederlo, accompagnata alla chitarra da Roberto Mazzoli. E si chiude domenica 30 con Canti e Ritmi, in cui abbiamo Stefania Placidi e Carmine Bruno, che ci allieteranno con chitarra e percussioni squisitamente popolari. Ecco, come avrete capito, insomma, è un programma abbastanza vario, in cui il teatro e la musica si intrecciano, ci sono delle situazioni di comicità, tra l'altro non ho citato degli interventi di teatro clown di Piero Ricciardi con Inca Italia, che invece andrebbero visti anche questi sabato 29 e domenica 30. Abbiamo due spettacoli diversi di Piero, quindi diciamo che noi intrecciamo il teatro di narrazione con il teatro clown, con la musica popolare, sono un po' le cose che ci contraddistinguono. Sì. Dire venite a vederci, insomma. Chiara, in chiusura ci lasci i riferimenti internet per seguire la programmazione? Assolutamente sì, allora il nostro sito internet è www.ilnaufragarmedolce.it, chiaramente senza apostrofe e senza accento. Su Facebook siamo presenti sempre alla pagina Il Naufragarmè Dolce, siamo presenti anche su Instagram, su Twitter, insomma Il Naufragarmè Dolce, dovunque lo digitate e trovate delle informazioni. Se volete vi potete iscrivere alla mailing list sul sito, così ogni settimana arriva la newsletter e sapete quali sono gli appuntamenti freschi freschi di settimana, ecco. Bene, settima edizione di Agora Teatro e Musica alle Radici a Roma, all'Anfiteatro Colosseo di Pietralata, dal 15 al 30 settembre. Un saluto e ringraziamento a Chiara Casarico. Chiara, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille, un abbraccio a voi e vi aspetto a Via Bombici.